Silvia Bellotti, regista del documentario Aperti al pubblico. Silvia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito. Aperti al pubblico, un documentario che ha ottenuto anche un riconoscimento all'appena concluso Festival dei Popoli a Firenze. Di cosa si parla, Silvia? Si parla di burocrati. I protagonisti del film sono gli impiegati di un ufficio pubblico di Napoli che lavorano per l'Istituto Autonomo per le Case Popolari. E per quasi 2 anni siamo stati nell'ufficio insieme a loro e li abbiamo filmati alle prese con i colloqui con gli utenti che abitano nelle case popolari di Napoli e provincia, quindi un territorio molto vasto. Io ho cercato l'incontro tra queste persone, tra gli utenti e l'istituzione. Filmando in questo periodo mi sono accorta che nel mezzo ci sono gli impiegati che devono riuscire a incastrare le vite complesse, caotiche, molto spesso disgraziate degli abitanti dentro gli scaffali ordinati della legge, cioè tutta questa umanità variegata deve essere ricondotta a qualcosa di ordinato e prestabilito. Qual è stata la spinta iniziale? Da un punto di vista creativo sono state le mie disavventure burocratiche, nel senso che per cambiare l'occasione, insomma, il pensiero, io ho dovuto a un certo punto spostare la mia residenza a Palermo perché ho vissuto anche lì e mi sono resa conto all'improvviso che tutta l'organizzazione della mia vita in pratica non rientrava nei parametri della legalità, della casa in cui abitavo e così via, per cui ho cominciato a frequentare l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e lì mi sono resa conto di un mondo, cioè quanto un ufficio pubblico possa raccogliere le storie personali di ognuno, far incontrare l'altro e soprattutto confrontarsi con lo Stato, cioè rendersi conto di come siamo in un meccanismo molto grande, di ciò che ci è dovuto, di ciò che dobbiamo noi alla comunità, alla collettività, per cui mi affascina il rapporto tra il cittadino e lo Stato. Dopo questa esperienza di Palermo mi sono trasferita a Napoli, si è presentata l'occasione produttiva di produrre questo film perché ho partecipato a un atelier di cinema del Reale diretto da Leonardo Di Costanzo e si chiama Film Up. Questo atelier si è svolto nella periferia di Napoli, a Ponticelli, ed è stato ideato dall'Arcimovie di Napoli. Senti, rispetto a questa realtà, su cosa hai voluto focalizzare l'attenzione nel tuo documentario? Sul fatto che delle persone, gli impiegati, devono svolgere un compito praticamente impossibile, perché le leggi non sono applicabili alla vita reale delle persone, almeno perlomeno da quello che ho visto delle persone che vivono nelle case popolari, perché diciamo se la Costituzione italiana prefissava l'obiettivo di dare a tutti gli stessi diritti, le stesse opportunità, diciamo a distanza di 70 anni io ho constatato, ma è un'ovvietà, che però molti vivono ancora in condizioni di povertà estreme, in contesti in cui l'illegalità è la normalità, e quindi è facile in un contesto del genere uscire dai binari dell'ordinarietà, o meglio mettersi, oppure forse in quei contesti l'ordinarietà è anche quella di passare per il carcere, di non avere il lavoro, di arrangiarsi in qualche modo, e tutto questo crea poi dei problemi a catena, come ad esempio quello di non riuscire a portare a termine una banalissima pratica come il cambio di residenza se si abita in una casa popolare. C'è qualche aspetto che ti ha sorpreso in positivo anche? Sì, mi ha sorpreso in positivo la straordinaria umanità dei protagonisti del film, gli impiegati, perché grazie al loro sforzo personale, alla pazienza, alla capacità di comprendere l'altro, a volte riescono a non a forzare le regole, ma a fare quel passo in più che consente all'utente di portare a termine la procedura. A volte riescono veramente ad arrivare fino in fondo, a volte anche solo l'ascolto o la disponibilità a prendersi carico di un problema aiuta la burocrazia ad andare avanti, altrimenti veramente rimarrebbe tutto cristallizzato. Che tipo di reazioni ci sono state al tuo lavoro? Di grande sorpresa, nel senso che il pubblico comune, cioè persone che non si occupano di cinema del reale, si stupiscono di come un film documentario possa essere appassionante, gradevole, stimolante. Mi è stato detto è bello come un film, questa cosa mi fa ridere perché io lo chiamo film, insomma, non è che lo chiamo documentario, è un film documentario. Peraltro sono molto contenta perché gli impiegati, quando hanno visto in una proiezione a Napoli il film, si sono commossi, si sono rivisti nel film, per cui questo è stato un passaggio per me molto delicato e molto importante, che è andato bene, cioè, nel senso, sono contenta in qualche modo di aver raccontato dal mio punto di vista in maniera più o meno fedele quel che accade in quell'ufficio. Allora, Festival dei Popoli e poi? Il film è prodotto dall'Arci Movie di Napoli e Luca, che è l'Unione dei Circoli Arci, ci consentirà di andare in giro per l'Italia e verremo distribuiti da loro nella rassegna Al Cinema Che Non Si Vede. Sì. E dopodiché tra i produttori di Aperti al Pubblico c'è anche Rai Cinema, per cui ci auguriamo che prima o poi abbia un passaggio televisivo, ma questo non è scritto, non è detto, ma insomma è una cosa che ci auguriamo. Sì. Poi speriamo che anche il destino festivaliero del film abbia seguito e che ci sia modo di organizzare molte proiezioni in tutta Italia, anche all'estero. Bene. Ci lasci in chiusura tutti i riferimenti internet? Ci potete trovare su Facebook alla pagina Aperti al Pubblico, con la chiocciolina ci trovate digitando Aperti al Pubblico. Anche altre informazioni si trovano sul sito di FilmUp, sul sito dell'Arci Movie, comunque diciamo da Facebook si risale a tutto. Bene, Silvia, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, buon proseguimento. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Silvia Bellotti, regista del documentario Aperti al Pubblico.